schifo. Aspetta, stasera di cultura e poesia. Posso registrare gli occhiali? Sì, gli occhiali sono degli anni 70, disegnati da Agostini quando ha vinto il mondiale. Ho trovato questa chicca, li ho messi per voi. Grazie, scusate. Mi ha messo un po' di alti ai microfoni, ci sembra che stai in una scatola. Cioè io sono del 76, un po' più alti, gliele grisse dopo e... battuta, va bene, hai capito. Come non sono un po' più alti ai microfoni? Però qualcuno se la provava prima. Che famo, Tony? Bene così? Allora, Stefano, stai seduto. Flavio, stai zitto. Tu non ti muovere, dai, tu inizia. Come va? Meglio? Meglio. A chi se ne frega, tanto per quello che dovevamo dire. Parla per te. No. Dai, no. Non si scherza a queste cose. Ma leggi il racconto. Stai zitta. Quando è il turno tuo? Per ultimo. Che cosa, mio? Non ci posso fare un cazzo, no? Per schifo Claudio, sentire uguale meglio. Allora, se fate silenzio mi sentirò lo stesso. Vada piano, non c'è un cazzo, come va? Metti un po' più di medi. Allora, io sono il vomito, dovrei essere un poeta, ma faccio schifo, infatti chiamo il vomito. E l'unica cosa che sono stato capace quasi a fare è a scrivere un accenno, cioè una specie di manifesto, il manifesto di bustista, che saremmo noi. Che poi l'ho copiata con i comunisti, plagiato. È uguale, esatto, vi leggo. È meglio non è roba tua. Ciao, no, perché? Sei creativo. Ero creativo, mi alzavo qui. Mi leggo solo l'inizio, poi se vi interessa dopo venire a leggere. Quanti volumi sono? No, però grazie Marinotti. Sono Gianmaritozzi. Gianmaritozzi. Allora, manifesto del disgustismo. Avevamo vegliato noi disgustisti sui vostri avanzi, rigenerando quello che avete gettato, ed ogni forma d'arte è stata proclamata. I poeti disgustisti sono i nuovi del futurismo e dadaismo, cugini del punk e figli del rigetto di stomaco. Sono i nuovi no poeti, usano rime asimmetriche, baciate e leggono senza intonazione. Sono i chiodi geniali e grandi menti, provocanti e provocatori. Sono l'ultima sponda vicino alla discarica dei rifiuti solidi urbani della letteratura italiana. Disgustismo, disgusto per l'arte o l'arte del disgusto, ai malati terminali l'ardua sentenza. Bravo. Poi adesso per le signore qui, le ragazze, io non so, qualcuno dopo magari gli piace, ma vabbè, dai, io sono il blues, vedete, me le porto sempre appresso, quindi. Ma che cos'è che tu lo scusa? Ma è chiuso ancora. Perché nessuno me la dà mai, nessuna cosa. Però se qualcuno stasera si chiama, ok, vabbè, va bene. Se vuoi un cabarettista, oggi forse la coda contributo. Sei ambiguo. Insomma, è parabrezza. Si accetta qualsiasi cosa, io ce l'ho, sappiate che. Mi porto con me, sono chiusi, sono 3 anni che stanno a vivere. Claudio, ma blues vuol dire tristezza, lo sai. Tristezza. Sono scaduti. Comunque, sappiate una cosa che. I preservativi con l'AIDS sono una grande truffa, perché non è vero un cazzo. Cioè hanno l'AIDS incorporato? No. Riservano da cosa? Da niente, perché il preservativo è nato per fermare lo spermatozoo, che è molto più grande del virus dell'AIDS, quindi il virus dell'AIDS passa alla grande nei buchi del preservativo, e si attacca lo stesso. Ma ci sono quindi, a dottor Fidel, esperto. Sono bucati. Le regaliamo la roba. Blu, le cose blu, sono mie. Cacciu. basta, autografarsi. Vabbè, colto pubblico, basta, come se da un attimo, come dice Tecnocisio, il poro Tecnocisio. Il poro Tecnocisio. Il poro Tecnocisio che è morto, è morto, ieri, eh? Morto ieri, e lui c'ha questo motto. La Pani. Vabbè, pratica, così ho sostituto, se ha permesso tanto. Titolo. Titolo, vacanza. Ma il microfono? Sempre a chiedere. Volevo andare in vacanza acustica, ballare con un'ostrica, ascoltare musica acustica. Pensavo, appena arrivo avrò una crisi mistica, perché sono un tipo rustico, un poco ottico. Mi muovo come un autistico, ma non sono spastico. Invece non sono mai arrivato, perché l'aereo è caduto, forse abbattuto, il volo esploso. Io so solo che ancora cercano di convincermi che tutto questo non sarebbe accaduto se le discoteche chiudessero presto la sera. Moralista. Non mi distrugge perché capiva così di poi gli vuole. No. Roma capitale. Ancora? Non mi ha detto questo. Esco di casa alle 7.33. Orario intelligente per non trovare traffico. Non riesco nemmeno ad uscire dal portone, bloccato com'è dalle auto imbottigliate. Salto sul cofano di una Panda 750 5 porte, vetri elettrici, sedili reclinabili, 5 marce, chiusura centralizzata e raggiungo così la mia auto. Alle 9.16 riesco ad uscire dal parcheggio. Arrivo ad un semaforo dove un extracomunitario mi si para davanti l'auto con lo spazzolone in mano proteso verso il parabrezza e con aria implorante. Io faccio cenno negativo con il dito, assumendo un'aria sprezzante, ma lui insiste. Semaforo verde, io un grano alla prima, lui non si muove, le auto dietro suonano, cantano, ballano, più non posso. Preso dal nervoso lascio di colpo la frizione, l'extracomunitario mi lava il parabrezza con sangue dello stesso colore del nostro. Mi accorgo che un vicino mi guarda, lo guardo e lui mi fa cenno di proseguire, che intraccio il traffico. Scendo, sposto l'extracomunitario maciullato, il quale mi tiene mezzo sacco, che peraltro non gli do, e me la vado sgommando. Dopo 86 minuti del traffico decido di parcheggiare davanti al passo carabile di un ministero. Così il carattrezzi mi porta via la macchina e io automaticamente trovato il modo di parcheggiare subito. In garage è tutto sommato buon mercato, visto quello che costa i parcheggi pubblici o abusivi che siano. Ora sono libero, mi faccio una bella passeggiata nel centro, annusandomi di altrettanto le ascelle per non sentire l'odore degli scarichi degli autobus. Passa un corteo di operai della Roma Nazzi, incazzati loro. Cosa volete? Un aumento? Chiede uno di loro, mi sputano il sette. Mentre tre zingarelli, non tre vocabolari, tre ragazzi, tentano di rubarmi il portafoglio. Mi rendo conto di avere fame. Bene, ora mi compro un po' di pizza. Il pizzaiolo mi frega 5.000 lire per un pezzetto di pizza secca e io la mangio con sotto, perché ieri era pure salata. Stanco la passeggiata, sento una gran voglia di tornare a casa a vedermi Marta Flavi, la sua agenzia famosi cazzi degli altri. Così è vecchia, quindi. Rinfrancato dalla stupenda giornata passata in centro, in un attimo di euforia, grido ad un barbone morente sul marciapiede: bella la vita in città! Bravo! Come dicevo un grande, Malcolm X, anch'io ho avuto un sogno, I had a dream. Allora, il mio sogno. Malcolm, e chi era? Ma che cazzo, da un altro? Era di colore, già! E già! Inizia con la M uguale. Inizia con la M uguale. Comunque, manco quello. Manco quello ho indovinato. Allora, come dicevo uno? Malcolm X. No, anche perché io ho sentito in un campionamento del brano disco, non è che ho capito che fa. Erudito. Ho capito, ma insomma, dai, sono ignorante. Sei erudito proprio. Erudito dal culo. Allora, come ho detto io, basta, su, per favore, dopo tocca a te, sono cazzi tuoi, sto qui. Bravo! Allora, anch'io ho un sogno. Il mio sogno è diventare restauratore delle belle arti, restaurare il Colosseo, metterci dentro i leoni e farci divorare tutti i grandissimi coglioni dei Papa Boys che vengono a vedere il colacco. Bravo. Per tutti noi. Questa piace uguale perché è da maiale, quindi la leggo. Ci sono pure due americani che non capiranno un cazzo quello che dico, è in inglese, ma tanto. No, capiscono. Capiscono? Sì, sì. Vabbè. Ma ne leggo altre due e me ne vado, vedo che mi piace. tu avevi fatto un taglio dei capelli. Ormai ho preso in via, cacciatemi via con dei capelli. Voglio un po' di bene, invece. C'è solo di ti piace? La leggo. Ma chi ha chiesto? La fate vedere, voi due. Allora, ieri sono stata al cinemino parrocchiale a vedere un film drammatico e ho visto la porno ammucchiata all'allegro convento delle suore in clausura che gli brucia la paura con i frati che sappiamo bene, fratelli, regione, collegiali, pompon che se fanno i ragazzi in donna, il consiglio istituto di insegnanti eravati invadono la riunione del sesto condominio con le maglie alle passaglie, il porno casalingo, la lingerie di pizzo, sadomaso, fetish, gay, lesbo, fist fucking, estreme rap, the weed boys, girl, and animals, blow job, gold, shower, caviar, eat, shit, lotus, domino, fit, sweetie, fit, stinky, bad smell, finger, in your mouth, up your knee, piazza, non ti fermo, estreme, di petruderata, spanking, hot wars, and pussy, and nick, gangbang, all mature, mama, fucking, per sempre, io non tempero, mia power, e Fabrizio Frizzi, per verso, da che body, se il resto è body, sto, e sweet, apra, fai, cartoon, 20 feet, transesso, trasporto, e trantrambo, da capo, baci, che resti, abbracci, amore, nel senso biblico. Buona bravo. Non è mia, è di un artista americano, Monte Casazza, l'artista poi. Ma piace, anche te lo la mia maestra in cima alla collina, totalmente coperto di sangue, ho sparato alla mia maestra un proiettile calibro 45. Con proiettile calibro 45 le ho fatto saltare le cervella, poi mi hanno internato per la mia follia criminale. Mi dicevano di piantare fiori sulla tomba della vecchia zitella, mi dicevano di piantare fiori, invece ho tirato una granata. Allora, il prossimo malato mentale che si esibirà ha un nome come un mese un po' pazzerello, questa battuta proprio. Marzio! Battuta nuova? Battuta nuova e poi proprio all'avanguardia da... Questa è la scaletta, tu vieni che cosa tiro l'aprilio. Dopo Marzio che era aprilio. Sì, è un motorina l'aprilio. Motorina gay. Ho chiuso il microfono perché ti sto. Tesoro, mi non scrivo mai così nuove, anche se non grazie. Caffero, dice il caffero. Fallo. Fallo, eh. Buongiorno. Sta bella poesia. Fallo. Fallo il verbo, complemento oggetto. No, cazzo proprio. Non puoi grammaticare qui, eh. Mi raccomando, attenzione alla sintassi. Leggo la mia serie zero. Serie zero. Viaggio astrale a Sora. A Sora. A Sora. A Sora. Sora nel frosinale. Ah. Ci siamo cascati di nuovo. Non abbiamo stuccato i buchi dell'umana perversione. Sicuramente ci vuole colpo d'occhio per zavorrare tutte le bottiglie di conserva. Poi c'è. Di quando è finita così. Dico finita. Finita. Ah. L'avevo capito subito. Come questa è una serie zen. Il pubblico è con c'è cioè anche la siedi, sono 4. Siedi. Eh? Sì. Poi più basso è un casino. Ciabatte per i piedi astrali. Sul mio portacassette ci piove. Sulla nostra virtù no. Passami l'attenzione verso il logaritmo che devo condire la levigatura. Finita. Finita. Alla sintesi, eh? Numero 3. Guanti per la testa astrale. Sposta la scrivania, tu che devi decollare. Fanno 50.000. Volevo solo guardare l'azzurro dei miei calzini. Allora sono 30.000. Finito. Numero 4. Assassino. Capita. Bene. È un livello meta, cioè insomma è un livello meta. 4. La gita astrale di Jennifer. Ancora finita. Dove siete, o voi che mangiando scomparite nel fulgore dell'esplosione dei servizi all'americana? Spremete l'ardito mattone di gioia e di intonaco, di cartone e al lavoro. Finita. Assassino! Cioè, il mio pezzo forte è le donne, no, è lui che è veramente il cittista. Fai col cappero! No, però apri il tuo cuore. Come apri il tuo cuore? Diventano italiano! Già lo sono, grazie. Giallo? Mi diventano! L'erba la devi mangiare, non fumare! Apri il tuo cuore. Il tuo cuore. Cuore. Apri il tuo cuore all'onzetto lavatore, al camion di Leore, all'assetto posteriore. Apri il tuo cuore al giudizio cautelare, allo sghembo sprintore, alla pista formattare. Apri il tuo cuore, smetti di urinare, comincia a defecare per nel buio incatenare. Apri il tuo cuore all'arte di ammazzare, ad un bel gruppo di zore e alla figlia del dottore. Apri il tuo cuore invece di chiavare, apri il tuo cuore alla cura canalare, distilla un liquore con le dita delle suore. Apri il tuo cuore e riempio di sperma. Finito. Bello. C'è un suggerimento qua, è scritto a Baggio. È scritto a Baggio. Sì, sì. Tutte. Cioè, l'ultima è dedicata un po' a tutti voi, gli amici di sempre. Di chi? Gli amici di sempre. Non è venuto? Non è venuto stasera. Sempre, non c'è. Gli amici di sesso, dici che io lo so, non è mica della furfura sul coso nero. I giorni in cui rasando i treni prendevo, spalmando negli interni di arbusti e delicati. Il pinguino che abbiamo nella tasca interna è il nostro metro di giudizio? Sì. E allora, menzione. Dai, tutti sul palco. Grande. Bravo. Peccato che sia un mese in anticipo. Certo che il pinguino. Ma faccio 10 così. Claudio. Presentazione, no? Ma devi cambiare. Claudio. Claudio, 10 minuti. Ognuno presenta me. Anche voi sento da solo perché lei sembra, non si sente però. Sembra giusto. Anche io la voce, no, si sente fuori. Che cosa sta dicendo sulla voce? Si sente sulla voce, non mi dico. Si sente la puzza. Le ascelle si sentono. Ti chiami si sente? Alza la voce. Ti chiami si sente? Mi chiamo? Si ma sente. Perché non sì, mi chiamo lei? Si sente, ma okay. Si sente? No, si tocca. Allora, no, perché il problema è. Si pente! Il problema è che adesso devo declamare con un tono dimesso, se non si sente. Allora bisogna chiedere. Sì, perché mi ci vuole sentimento. Mi rattristo. Non lei ha spento il microfono, no? Mi sto già rattristando, questa drammatica. Bravo! Un applauso a Topolite. Ragazzi, stiamo in silenzio. Si sente? Io ho bisogno di... Sì, molto che piccio disco. Pronto? Ecco, perfetto. Perfetto. Questo lo tengo per i peppi fritti. Allora ricomincio con una polemica, perché in realtà io essendo uno dei più vecchi poeti, diciamo, della nostra, no, della nostra, del nostro gruppo, male. Uno dei più antichi, come direbbe un nostro poeta, io non ci sto, nel senso che questa sera non c'è questo poeta, però è morto, non ci starebbe. Allora io non ci sto a essere terzo, perché in realtà i veri protagonisti, i veri eroi arrivano per ultimo, no? Mi sono messo col terzo per non creare problemi. Ma i terzi saranno i primi saranno i terzi. No, i terzi sono i terzi incomodi, sono dopo tre giorni l'ospite busta. I terzini allora, sono due. Più, io ho capito che devo andare. Pronto? Non lo faresti mai. Faccia tittare. Ma tre è il numero perfetto. Ma che hai terzi che hai mezzi? Stasera poi è triste. Sangue, Iago, sangue. Santo, santo. No, sangue, Iago, sangue. Sei ingoiato? sangue. Sarebbe ora che inizi. Sangue. Shakespeare. Va bene, io comincio qua. L'Otello. Tesoro, Alessio, L'Otello. Accidenti. Questa settimana no, è vero, ci stanno. C'è il gioco quello che vuoi dire bianco e nero. No, quando il tipo ti dice, quando Iago ti dice praticamente di Deborah, c'è una storia. Allora, Iago, scusate, silenzio. Ragazzi, già c'è tanto dramma. What? Io fecondo. Terzo, hai detto. Io fecondo, lo so. Io fecondo a tutti. E tutti vengono prima di me. E sei fecondo. Ma tu vieni dentro a tutti. No, è lui da partire fuori. E io io fecondo. Pari merito. Secondo me è fa. Un attimo di serietà, io sto avendo ispirazione, sento un Dio che quando è così un attimo zitti, io fecondo lo so, io fecondo a tutti e tutti vengono prima di me, io fecondo con grandi fatiche, nella vita uno cerca di emergere e invece fecondo a tutti. Secondo me è sempre inverno, fa sempre freddo dentro me. La coppa podistica, io fecondo, mai prima. Genio, analettico, poeta. Fruppi. Ulati di simio corbite, inneggianti cosmo tiberine, et sobitebuli ins tabit, ove cose sembrano rose, ove rose dubani spose. Cadivia di vini sparsi, manovellati ix servo, risveglio nel cuo ben brandellato. Oh! Brisevoli cospite, ricolanti in tacit fusi, maniglie disperse in sughi putridi, la vita vino regolati in salimandi. È vero, mia cospolita, tu la sesci in germina le unghie. Mio caro, mi stretto da usellanti maniglie ivet, culminato non su piccoli brisevoli cospite, che ormai cospite non siete. Fingeramente. Scusate. Natale, per favore. È sempre Natale. Sì, Natale, sì. Natalizio. Cercavo proprio la serie natalizia. No, queste cose sono così spontanee. È Natale. Pensa, non l'avevo riconosciuto. È Natale, pensa, non l'avevo riconosciuto. Tutto ciò mi preoccupa, sarà l'Alzheimer? Che mi frega, tanto lo saluto. Non mi avrà riconosciuto? Ma che ti devo dire, se mi riconosce lo evito. Magari faccio finta di essere inglese. Gli dirò, no, guarda, sono il fratello gemello. Ma perché devo vivere così? Tutte le volte che esco intorno a qualcuno, incontro qualcuno che mi chiede qualcosa. Ma che serve dire qualcosa se qualcuno lo incontro solo se esco di casa? È Natale, io non lo riconosco più. Che vuol dire che è diverso? Sarei invecchiato, sarei ingiovanito? Tempo sfuggire dalle sue attenzioni, mi guarda. Che vuol dire? Se mi parla io non rispondo, anzi gli dico, non mi toccare, capito? È Natale, miei cari, siamo tutti quanti felici di esserci ancora. È Natale, miei cari, e siamo tutti incuriositi dal fatto di esserci ancora. La seconda natalizia. Natale per me è un momento di grosso dolore. Una per carnevale ce l'hai, sì. Sì, c'è anche quella per carnevale. Uguale, è la stessa. No, no, all'incontrario. Riflesso dal vetro della finestra emergono in me tanti sottili desideri. È Natale e mi ergo ritto in un batter di mani dicendo: cazzo, è Natale, allora nevica. Corro velocemente alla finestra e la vedo. È lì, lenta, copiosa, è un'alleata fedele del cielo. Questo mi fa riflettere sul peso che ha la mia esistenza in questo contesto imbarazzante di un uomo che alle volte in una prossima mezz'età si chiede: dove cazzo ho messo gli occhiali? Oggi sono molto felice, mi sento stranamente bene. Ho deciso di essere più buono e più attento. Ma intanto la neve scende, sembra quasi che sia nella mia stanza, sembra che cada dal soffitto. Ma no, è solo un suggestivo effetto. A Natale tutto diventa come il presepe. Ci si irrigidiscono gli arti e le gambe si petrificano. Le giornate sono corte apposta. La neve cade ancora, sono veramente allegro in questo posto. La neve scende anche sulle mie spalle. A questo punto mi chiedo: ma è la neve? No, è la mia forfora. Grazie. L'ultima. È la Cileb. Ezra. Otrek. Nos non. Etagnas. E. Iglak Elorap Emitlu El Etseok Noruf Apert Al Is Apert Al Apert Al Isapim. Grazie. Ovrappe. Ora faccio il reverse e la leggo. I facchini falciati dalla folla oppressa da minuti d'attesa. Mi passi la trippa? La trippa? Sì, la trippa. Furono queste le ultime parole. Calci, pugni e sprangate, non so certo carezze delicate. Grazie. Bravissima. Grazie. Ed ora un grande cantatore in veste di poeta, questo. Vestaglia di poeta. Andrea Evangelisti. Grazie, siete meravigliosi. Bello il giacchetto, eh? L'ha preso da là. Pelle di natica. Era l'assistente consolare, ho preso io. Ho messo la chiusa lampa un sacco d'altro. Ma vi leggo un articolo. Lo sai che viola porta sfiga? Eh? Il viola porta sfiga. Ah, questo. Si senti tu. È scaramato. Una cosa che ho preso da un articolo di un giornale. Manca a fallo tuo, proprio. No, questo qua è il dottor Claudio Salvatori, è un tecnico delle microonde, ci spiega il forno a microonde. Che cos'è e ci rassicura sul forno a microonde. Questa è una cosa vera, sta su queste cose dell'AGS, se vi fate la testa da AGS, no? Ma la mia fratello che c'ha la lavatrice. Io ce l'ho sopra la lavatrice davanti all'antiaccesso e quando cago... Che ti spiega che è la lavatrice. E devo dire che fa il suo effetto. Portentoso. Diciamo. È portentoso, pure se stessi. Ma funziona? Funziona. Ma sono con stichezza. Sì, devo presto. E poi c'è pure il corpoio. La si chiama Amico Ronde. Amico Ronde. Qui la prossima volta, allora Claudio Salvatori, professore di gestione della qualità nell'industria di gestione presso la facoltà di agraria. Allora dice questo: le applicazioni tecniche dei principi fisici scoperti nell'era dell'industrializzazione hanno la caratteristica di sorprendere quasi sempre gli stessi scopritori con applicazioni completamente diverse da quelle per le quali erano state pensate. Questa è la premessa. E quanto si è verificato, non sanno che cazzo fanno. Esatto. E quanto si è verificato anche per le onde radio. Durante la seconda guerra mondiale, così era il forno a microonde, ragazzi. E durante la seconda guerra mondiale ci si accorse che gli uccelli che nel loro volo urtavano le antenne radar sparse sul territorio come sistema di allerta, cadevano a terra belle cocci. Io leggo qua. Belle cocci. Squisitezza. Con le patate. Se ne dedusse che con tali radiazioni sarebbe stato possibile cuocere alimenti in tempi estremamente grandioso. Da allora i forni a microonde si sono diffusi in tutto il mondo. Grazie fra cent'anni, grazie, molto buono. Bravo. Vorrei... Io mi sono vedati dal 76 come da email mi ha mandato mi sembra. In compenso c'è Chernobyl. E tu sei vogliono energia nucleare. Ti cuociono così. Vorrei incontrarti fra cent'anni, che è il titolo anche di una nota canzone di qualche anno. Fa questo lupo. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Tanto mi stai sul cazzo. Siamo in tema di elezioni. A Silvio. Silvio, rimembri ancora che danno a fanculo è giunta l'ora? Te lo voglio dire perché sono troppo incazzato. Mortacci tua di chi t'ha votato. Questa è finita. Questa la leggo perché così è per le persone che l'hanno capita. Depressione. Oggi anche il cioccolato è amaro nella mia bocca. Forse è cioccolato amaro. Ecco l'ultima. Però è lunga, però. Quattro ore. Allora va. Allora leggo un'altra prima e poi leggo l'ultima. Okay. Una cosa purtroppo che ci capita sempre, ma questo fatto dello scatto la risposta. Lo sapete che tutti i soldi... Cioè fatevi fa... l'estratto telefonico, tutte le telefonate che fate, e vi accorgete ci sono tante telefonate che durano un secondo o due, no? Perché casca sempre la linea di chiamate, no? Perché c'è uno scatto alla risposta che costa 220 lire più IVA, oppure se chiamate col telefono 350 più IVA. Io ho fatto questa cosa, si chiama scatto alla risposta. Cade la linea e richiami. Cade la linea e richiami. Cade la linea e richiami. Fine. Lo so, è purtroppo la verità. Adesso andiamo ad una poesia un po' più corposa, che è l'ultima, è dedicata a un personaggio che c'ero scritta 10 anni fa quando ero molto incazzato, adesso pure, però diciamo che speravo che nel frattempo questa persona non ci fosse più, invece c'è ancora. Si intitola Che cambia fa? Che cambia fa? Non l'ho ancora capito, non sei più una leggenda e nemmeno un mito, sei solo un bastardo vestito di bianco, e qualcuno, un porco, ha scambiato per santo. Alla povera gente tu ti rivolgi, con le tue encicliche piene d'imbrogli, racconti stronzate e poi parli di fede a qualche coglione che ancora ci crede. Circondato da vescovi, cardinali e baroni, ne sembri Alibaba coi 40 ladroni. Non a caso i tuoi antenati che iniziarono l'inganno si chiamavano tutti Pio e Magno. Tu invece polacco, dal Vaticano, parli alle folle col microfono in mano, ma saresti più utile nella certezza se andassi agli incroci alla vai per attrezza. Invece continui a sparare ste cazzate sul matrimonio, i figli, le scopate, condanni la pillola, il profilattico, il sesso. Ma io non ci casco, mica t'ho fesso, io me lo metto il preservativo, ed è grazie a lui se ancora sono vivo, e non grazie a te, che per essere coerente lo prendi al culo e non usi niente. Certo predichi bene durante le messe, ma io sono sicuro che c'è l'AIDS, e non dì che sono state le trasfusioni, ti piace troppo annacco i frocioni, lo sanno tutti che c'è un orifizio che è peggio del pozzo di San Patrizio. Sei un gran buffone vestito a festa, potessi cascare e spaccarti la testa. E ci hanno pure provato a farti fuori, ma tu sei negocio, col cazzo che muori. Scusate, un momento di serietà prima di iniziare con le poesie. Volevo farvi con un monito. Sì, ma voi ne abbiamo. Per i pochi che non mi conoscono, io sono Hermes. Ma il caro amico Andrea potrà capirmi che attenzione a quello che si dice, attenzione a quello che si fa, anche qua dentro, perché anche qua dentro ci potrebbero essere delle spie. Adesso poi si può cambiare. Siccome quello che sto per dirvi non è una poesia cretina, ma è una cosa molto seria. Ma chi sei tu? Mi metto un copricapo serio e vi reciterò parte di un dialogo di vita vissuta. Madre di tutte le madri. Se in futuro io noto questo positiva, ti stavo dicendo di essere molto accorto, molto accorto, molto accorto nel valutare questi spettacoli, perché se tu me lo porti a una serata di poeti demenziali, qualche cosa nel bambino lo noto, la mia reazione poi non ti piacerà, non sarà una reazione a te favorevole. Chiaramente la mia preoccupazione è giustificata da un passato vissuto, giusto? Sì. Giusto? È giusto? Ma adesso basta con le cose serie, passiamo alle cazzate. Questa è ermetica come te, ha dato un questo. Io spero che ci sono delle spie di qualcuno che poi riferiscano alle altre sfere. Un poeta ermetico lui, è Hermes. No, c'è le certezze di persone. Vabbè, pure tu a partire. Bucca pazza! Da piccolo ero assolutamente terrorizzato dagli sciogli lingua, quelle cose terribili. Da grande terrorizzo io, perché mi facevano dire quelle cose allucinanti tipo tigre contro tigre, che non ci si riesce nessuno. Non ci riesce nessuno, allora ho provato a facilitarli, almeno quelli che mi ricordavo. 32 più un altro residente in Trento giunse nel loro capoluogo non cavalcando, ma giammai galoppando. Poi, bel felino striato di nero affronta un suo consimile. L'ultima, superiormente al sedile, l'ovino barbuto sopravvive, viceversa egli decede. L'ho capita! Dell'effetto di Dio è ci hanno fatto entrare! È il cim, non si chiama più cim, si chiama più cim! È tratta da un famoso film uscito l'altro anno, Il collezionista d'ossa. Cioè il gomito del tennista, il ginocchio della lavandaia, esatto, lo stinco di santo, il tallone d'Achille, la spada dell'attore, la costola di Adamo, la testa di Moro. Mo che ce faccio? Bravo. Grazie. Il suicidio del Gaetano inventato. Sono riuscito a mandar via qualcuno? Le fatti scappare. Meno male, eh? Il Ciao. Suicidio del Gaetano inventato. Perché il 23 passa solo se c'è il cucio di culo? Perché quei buoni pasto non posso fare un buon pasto? Perché da piccolo c'hai 3 mesi di vita, puoi toccare tutte le tette che ti pare ma non te ne frega niente? E da vecchio c'hai 3 mesi di vita, vorresti toccare qualche tetta ma non te lo fanno fare? Perché da scapolo non puoi farti una scapola senza restare dopo? Perché se i gemelli entrano nell'acquario non si bagnano i polsini? Perché essere incinta è uno stato così interessante? No. Perché a scuola ti chiedono di fare un triangolo e ti applaudono, mentre se lo fai a casa con le cuginette ti menano? Perché esiste il pipistrello ma non il pupustrello? A questi ed altri dubbi non darò mai una risposta. Sarebbe una canzone, ma provo a leggermela così. Sono tornati, guarda. Siamo Pupustrello, non sarò da qui. Alla fiera dell'elettronica. Alla fiera dell'elettronica per $2 un mouse mio padre mi comprò. E venne il Ketty che si mangiò il mouse che per $2 alla fiera mio padre comprò. Ci sarebbe ritornello, ma lasciamo perdere. Venne il Doggy che morse il Ketty che si mangiò il mouse che per $2 alla fiera mio padre comprò. Poi venne il Ben che picchiò il Doggy che morse il Ketty che si mangiò il mouse che per $2 alla fiera mio padre comprò. E venne il virus che uccise il men, che picchiò il dog, che morse il cat, che si mangiò il mouse, che per $2 alla pera ne vale. Ci vuole donna! Vale? Donna! Ma quella è serissima. Vabbè, prima una più seria ancora, ragni nel culo. Questa è ispirata a maestro. Sembra meravigliosa. È deliziosa, eh? Ricordiamo che ci sono dei minorenni in sala. Senti che parla. Ma io ero in inglese. Me la dedichi? C'è un cranio sulla spalla, però insomma voglio dire. Non so, dipende dove mettere le mutande. In testa. Che ci fai coi ragni nel culo? Perché cammini coi ragni nel culo? Forse speri che qualcuno te li cavi? Non pensare che lo faccia io, sai, non ti caverò i ragni dal culo. Ma tu sei contento così, ignorante e coi ragni al culo. Finto artista e coi ragni al culo. Cristiano e coi ragni al culo. Casa e famiglia e coi ragni al culo. Tu cammini coi tuoi ragni al culo e i tuoi ragni vivono felici. Allora, a grande richiesta di una mezza malata, donna fa parte della parte dell'amore, vedete, cos'è un cuore? Mettici un ragno sensibile. Donna, e con questa chiudo. C'è un farmacista, è venuto a trovarmi John. John è mio amico. Si è seduto, abbiamo bevuto birra e chiacchierato. Non ho avuto nessun desiderio di fotterlo. È venuta a trovarmi Barbara Sue. Barbara Sue è un'amica. Si è seduta, abbiamo bevuto birra e chiacchierato. Avevo una gran voglia di fotterla, ma non gliel'ho nemmeno detto. È venuta a trovarmi Donna. Donna è la mia ragazza. Si è seduta, io ho bevuto birra, io ho parlato, avevo una gran voglia di fotterla, gliel'ho detto, ma lei non ha voluto. Spero che torni ancora a trovarmi John. Corrado Mancini con le sue poesie tristi. Corrado Mancini, bravo, il giovane Corrado Mancini. Bravo, bravo, basta. Bravo, bravo. Mi sono sbagliato, ho preso la rubrica. Leggi la J, non c'è nessuno. Guarda come è l'altro. Stefano, non è che quel bicchiere di vino da là che ti sta lì addosso. Bravo. Bravissimo, grazie. Basta. Adesso la seconda parte. Ma cosa? Ci crediamo. Ma come no? Chi è che va a cercare la cita? Ma devo ancora la recitavo? Se dovevi preparare a casa, ancora, mica puoi venire a improvvisare. Sotto le C ci sono un sacco di parolacce interessanti. Io ho sempre detto di mettere i segni, 1, 2, 3, i numeri. Il problema è che non sa leggere, quindi non trova. che cerca. Bravo! Oh. Al microfono, bravo. Ci provo? Sono emozionato. Dai. Dammi un bicchiere di vino. Io voglio brindare alla morte dell'amore. Sono stanco di tutto e di te, che sei quello che sei. Ho tentato di far di te una donna e invece non sei che una gran troia. Dammi un bicchiere di vino, io voglio brindare la morte dell'amore. Sono stanco di tutto e di te. Stupenda! Bravo! Un po' più scarnato per te. Bravissimo! Un po' più cattivo. Più staccato dal microfono. Posso pure, è meglio. No, ma senza microfono è meglio, no. Se si capisce niente. Se vado a casa è meglio. Senza rubrica. No, senza microfono. Senza. Senza microfono però urlate. No. Incandescente, il ferro va... Che è? Scusa, no. Incandescente, il ferro va battuto come te batti me, forgendomi a tuo piacere. Battimi, ribattimi, battimi ora. Ora che sono incandescente del tuo amore, battimi, prendimi, ora che sto in te, ora che sto dentro di te, battimi ora, cuore palpitante, il fuoco delle passioni arde dentro di me, così battimi, battimi di nuovo, mentre vengo, io vengo dentro di te. Wow! Ora è freccia! Un po' da dentro ci vuole! Si fidava di te? Mi faccio battere. È geloso. Vuoi che ti batto? Se vuoi dopo, no. Macchia, 500. Short Creek è macchia, ti faccio battere io. Però ce l'hai i pantaloni di pelle. C'è il pantalone da pompino, è uguale? Beh, sì. Io penso. Come il migliore jazzista sbottona la camicia, allentandosi la cravatta, al tempo di una batteria madreperlata. Una chitarra muovendo la penna sulle corde con tutta la bellezza, con tutta la freschezza di un buon suonatore di jazz. Ti alleni con gli occhi guardando, suonando un sincopatico jazz. Dolcezza che trovi fra le sue braccia, fra il profumo e il fumo di un locale jazz. Il vestito buono, scuro, a righe come le rime, dalle mani fra le mani, suono, suono dell'anima, suono jazz. Così rimane lo spirito di passione, amore, amore per il jazz. Era ora! La bambina ama i suoi pantaloni di pelle e tira lucido il completo nero. Si diverte a farti soffrire. Tu sei soltanto il suo umile servo, strusciando ai suoi piedi, leccando gli stivali, e ami quando schiocca la sua frusta sul tuo corpo cicatrizzato e sorridi ai colpi che spaccano le tue fragili ossa. Non puoi fare a meno di lei, no, non puoi fare a meno di lei. Ami farti cavalcare mentre il frustino sulle natiche lascia profonde ferite. Dolore e piacere sono le cose che ami e non puoi deludere la bambina perché lei si diverte e tu sei soltanto il suo umile servo. Tu sei soltanto il suo piccolo servo. Troppo. Troppo. Due parole, finalmente i quadri disgustisti diventano internazionali. No, partami un po' davvero, ma dall'America, da Nashville, Chicago, Illinois, Nashville, Chicago, Crosby, Steve Nash e Chris. Soprattutto da Disneyland. Vai. Oh, i sottotitoli per chi non capisce stanno a pagina 7. Ah, sono in inglese, Chris? A memoria. Passiamo a tutti. No. Non lo sa che è meglio. Non c'hai i filtri. Questo è Paolincio. Perché la mia pubblicità, cioè ogni giorno dovevo vedere pubblicità questa sera per farmi ricordare che c'era una serata nella frittura che potevo sperare andare avanti per questa serata. E ogni giorno ho detto, ah sì, fra, sta fra un paio di settimane. Qualcosa del genere. E poi oggi io ho guardato, ma che cazzo, 2 febbraio? Fra un mese, che cazzo faccio? La sigla. È vero? Si è capito. Però sentito quindi... poi da una telefonare che noi veramente stasera, quindi ho scritto questa poesia. Bravo! Cioè, c'ho il calendario, Ok, sono 2. Va bene, questa volta. Esagerato. Questa volta, Questa volta allora. Megalomane. Suck my fuck. Crazy cow blues. Uh-huh. Hot beef injection. Lick the blood from my shoes. Bravo. Giuro che rimava. Che succede? Sua fiducia quello che hai detto. Eugenio. Rimane nel fermo, va bene. Sì, quello è l'unico che ho capito. Poi ho scritto questo dopo, sempre con la scala scrittura dei miei nonni. Bravo. A mano. Complimenti. Dovevi vedermi scrivendo questo. Che ha detto il maiale? Prima che ha detto. Non lo ricordo. Dark red hues all around your body. I'll make another hole. I'm gonna fuck your suck. An overcast mind. In a network where lightning strikes. Dark red hues. And the smell of shit. Bravo a questo punto musicale. Lascia il foglio. Bravo. Allora, adesso ragazzi, una poetessa, quindi mi raccomando, contegno, una cosa seria. La poetessa. Finalmente. Bene, prego Donatella. La regina degli anni. Facci venire. La regina che si caga su. Facci venire. Finalmente un po'. Se riescono a fare la cacca sarete contenti. No, siamo tutti contenti della fai. E ce la tiri addosso. Non è escluso. Cospargi. No, funziona? Questa sera vi farò piangere. Preparatevi. Io dopo. No, guarda, l'ho pensato perché questa è proprio la risposta a una cosa che ho scritto, è una cosa del 96. Marina Morgan. Era ancora romantica. Se ci vedo, ve la leggo. È intitolata L'avventura ed è l'ultima avventura che ho avuto. Gelido l'amore sgocciola via da un preservativo di doppia marca. Infilato o tolto troppo in fretta, veloce come l'illusione, un lampo dell'incontro. Tra le dita incrostate, scivola, felice di morire solo, l'ultimo spermatozoo che l'ha ucciso. E un'altra molto breve, antecedente agli haiku. Masturbazione urbana. Di solito il telefono squilla proprio adesso, mentre ti sto ancora amando. Da Caspina! Brava! Alti livelli, ragazzi! Alza la cornetta! Adesso non c'è un rosso. No, le leggo i tutti e 500. Tutti e 500 per l'ultima volta, dopodiché non le leggo più. Caro Tom Cruise, meglio trombare oggi? Perché domani? E questa è dedicata alla mia nipotina. complimenti, bella zia. Bella zia. Mi sta vergognando, te lo volevo dire. Esatto. Beh, credo che dico questo con il Grande Fratello, eh? Scureggia fatta, di tutte le fragranze, la prediletta. Sole d'agosto, per vincer l'afa trombo, a più non posso. E su più bello, mentre lo fotto penso, creste di gallo? Estate calda, d'essere inculata, una gran voglia. Monti Caprino, colli, colline, cazzi, tutti nel culo. Non hai come metafisico. Sarà importante, ai fini dell'universo, quel cazzo moscio? È un po' di aico per gli amanti. Lo trovano strano che d'improvviso io mi gratti l'ano. Dormo da sola perché voglio sognare e scureggiare. Non c'è clemenza, l'eiaculatio precox, un'indecenza. C'è qualcos'altro di me oltre al culo, Bruce, che ti interessa? Sarei felice nell'arrostirli tutti, belli e brutti. Questo è un oico ambiguo, tra gli amanti e il Natale, vabbè. Sfortuna volle, il pacco che vedevo erano palle. Quelli di Natale, semplicemente. Brava! La notte di Natale mi sento male. Perché di grazia la verga natalizia non fa notizia? Il pergoletto, forse vi parrà strano, ma ce l'ha dritto. Siate malvagi, accoppateli bene i tre re magi. Bene farete se di sperma il cosmo cospargerete. Uno d'attualità. La mucca pazza, non c'entra nulla, però che bella mazza. Voglia Dio che nell'anno venturo fottersi possa. E per finire quest'anno giubilare, meglio pregare. Brava! Massacra. Guarda, te le conoscono tutti. Chi sei? Chi sei? Non so da chi. Dici chi sei? No, no, no. Allora, so se avete sentito che oggi c'è stata la sentenza della Cassazione, che oltre alla, cioè, la toccata di culo, quella repentina, è valida. Invece la... È vero, oggi è la che è repentina, ecco qua, c'è niente. Proviamo che c'è vietatissimo, c'è un'altra sentenza che è vietato toccare il zinno, quello da restano. Meglio di niente. È vero, l'hanno detto oggi. Con queste parole esatte. Allora, dato che abbiamo introdotto l'argomento dell'amore, vorrei subito dire quanti anni hai. Quanti anni hai? 22? 25? 28? Dammi il culo che te la botto. Diretto. Vabbè, io non scrivo in genere queste cose sporche, era così. Questa è una vecchia, vecchissima poesia che adesso è diventata attuale perché a un mio amico è successa una cosa con il riso. Anzi, questo è un consiglio. Ho comprato una TV rotta. Ce l'ho. Ho comprato una TV rotta per non vedere le cazzate che fanno la sera su tutti i canali. Ho comprato una TV rotta perché non avevo i soldi per comprarla sana, porca puttana. Oh, grazie. Ti capisco. È finita mezz'ora. Questa è una poesia che ho scritto questi giorni, vedendo un documentario, quello sugli animali, credo, di Angela, questi film. Wow. Di Angela, amica tua. Angela, è una pornosa che si può dire. Cioè, a me questi documentari mi ispirano la violenza proprio pura violenza. Infatti mi mettono fuori questa cosa, però lo vedevo, ero distratto, mi sono un po' confuso. Sentito l'ossa di pesce. Ah, sì, sì, quello che è. L'ischia di topo. È meglio che ti uccida adesso e non dopo. Zampe di serpente. Prima ti rompo una costola e poi un dente. Piume di cane. Ti ficco nel retto un intero casco di banane. Pinne di marmotta. Estraggo dal cassetto la 38 e ti tiro una botta. Proboscide di pantera. È primavera. Spero di darti fuoco prima di questa sera. Artigli di medusa. Ti estirpo le corna senza chiederti scusa. Corno di castoro. Ti metto uranio impoverito in ogni poro. Branchie di pipistrello. Ti sego il cranio e ti smolecolo il panchero lungo con zoccoli di salmone, cresta di gambero e falci di colibrì, ti faccio un culo così. Non so perché. Non so perché stamani non mi sono alzato. Non so perché la sveglia non ha suonato. Non so perché ieri sera ho fatto molto tardi. Non so perché non sono andato al lavoro. Non so perché sento il suono delle campane. Non so perché mi giro nel letto e non so proprio di alzarmi. Non so perché oggi c'è poco traffico. Non so perché ho voglia di dormire. Non so il perché di tutto ciò. Forse perché è domenica. Allora, adesso al cambio di millennio ho sentito bisogno di continuare la vecchia saga dei pesci. No. Vogliamo la trilogia tutta. Il pesce calciatore. Il pesce calciatore giocò la sua ultima pesce partita nel pesce stadio, davanti ai suoi pesce tifosi. Fece anche pesce gol, ma non era felice. La sua pesce carriera era finita. Aveva ottenuto buoni risultati, un pesce campionato, due pesce coppa campioni, quattro pesce coppa Italia. Alla partita d'addio al pesce calcio, i suoi pesce fans lo osannavano, lo incitavano con tutta la pesce voce che avevano nella pesce gola. I suoi pesci compagni di squadra erano molto emozionati. Lui era contento, ma allo stesso tempo era triste. Finiva la sua avventura di pesce calciatore. Molti pesci anni erano passati dal suo pesce socio. Il suo pesce presidente gli offrì un posto nella pesce società, ma lui rifiutò perché si rese conto di essere un pugile. Non sopporto. Non sopporto i vecchi che sputano per terra. Non sopporto serbi e croati che fanno la guerra. Non sopporto chi va nudo in metropolitana. Non sopporto la buccia della melanzana. Non sopporto chi ha il cervello nel culo. Non sopporto il contadino che si tromba il muro. Non sopporto Giuca Scasella e Bisteccone. Non sopporto Fiscardi e Muviolone. Non sopporto chi si brucia come i Bonzi. Non sopporto i leghisti perché sono tutti... Stronzi. Non sopporto Mario Mero la sceneggiata. Non sopporto chi non mangia marmellata. Non sopporto la coda all'ufficio postale. Non sopporto il pesce andato a male. Insomma, non sopporto. Sostazione. Allora, la grande poetessa. Signora un'altra poetessa. E a di voi. Ci sono ancora le porte di per allora, per i maiali. Innanzitutto leggerò mettiti il rossetto. I titoli della prossima, delle prossime poesie. E sono Storia dell'ansia orientale. Donna sessuale, porche non le ali. Vabbè, dove vedo questa chicca? Perché ti metti le spalle? Porci con le ali? Perché ti metti le spalle? Ci dice tutto. Vi leggerò questa, ma è profonda, per cui concentrati. Quanti metri? Uomini con piedi con patate, donne patate con piedi, uomini con piedi con patate, donne patate con piedi, uomini con piedi con patate, donne patate con piedi, uomini con piedi con patate, donne patate con piedi, uomini con piedi con patate, donne patate con piedi, donne patate con piedi, uomini con piedi con patate e donne patate con piedi. Incomprensibile, la cosa grande è che l'ha scritto tutto, ha anche tirato fuori il foglio, bravo. Sì, sì, ha scritto tutto, non è che non è improvvisato niente. Questa la dedico a tutti i miei amici e alle serate divertenti che mi fanno passare una splendida serata tra amici. Ora voglio sedere. Perché al pub è così che si sta, no? Seduti col tavolo, capito? E le chiacchiere. Con accorgimento centesimale e mano efficiente cupezza stasera. La bassa plebaglia con intorno in budella vacue parole. Sorseggiando birra che gonfia l'addome. Stento! Ho difficoltà per riuscire ad accennare interesse, quindi con stercoraceo sforzo rigurgito ragionevolmente liquami verdi nei posaceneri ricolmi di cicche delle più svariate marche mie e di altri. Nei boccali di birra mezzi vuoti, ora tutti pieni. Mi netto la bocca, controllo che il rossetto sia a posto. Mi alzo, saluto e me ne vado a casa, dove sarebbe stato meglio non mi fossi mai allontanata. Non è vero! Perché questa ti è la fuori? Mia preferita, proprio... E si intitola... No, io so. No, no, qua sei male questa qui. Mi devo muovere. No, no, era bello come stai, mi sono venuto apposta. Vai con la lap dance. Noioso, che giri per casa in pigiama. Pigiama orrido e corto, logoro e stretto che porti ciabatte da vecchio che mangi pagnotte, poi ruti, swap. Che vivi ancora coi tuoi. E viva la gente. No, io so, stuzzichi il dente, aspirando a stantuffo con lingua, risucchi quel pezzo di cibo incastrato tra i denti e insisti. Sul mondo continua la scheda. Poi dici, mi piaci. Io so che sono solo due volte che ci vediamo e scusa, non avevo notato i peli del naso che escono acciuti, davvero sono brutti, che hai i piedi con le patate, gli occhi gelatinosi e l'alitosi. No, io so che non mi piaci. Della serie meglio subito che tra un po'. Il cinghiale! Il cinghiale! Ti prego! No, cinghiale no. Sì, il cinghiale. Cinghiale. Ho una poesia tipo di circa 10 anni fa. No, quella di... è tipo... ho bisogno di sentire. Oggi è una splendida giornata. Scusate, ma mi scappa una vomitata. Una cagata, pensavo. Anche. Ma scopata. Una scopata magari. Ma era proprio una vomitata. Stefano. Oggi ci sta veramente bene. E se mi strappurrene, datemi pure un vaso qui sul naso, che così sarò contenta di mangiare la polenta. La polenta non mi è mai piaciuta perché non va masticata né bevuta. Ma chiudi. E allora, anche lei, se questa vita è una pizza, voglio buffarmi cipollina alla perlizia. Cipollina alla perlizia, siete proprio una delizia, il sapore della vita mia. Ah, me la regalate mia zia. Ah, che alitata! Ho preso una sbandata, sono buone ma pesanti, scappano anche gli elefanti. Oggi è uno splendido giorno, basta che ti togli di torno. Non ce l'ho con te, il problema è dentro me, queste cipolline mi hanno sviluppato. Mille bollicine che sono arrivate al mio cervello. Sparisci dalla vista, bello! Sono libera e indipendente, eppure mi sento deficiente. Il pensiero torna alla mente, telefonare immediatamente a quella zia che preparò le cipolline per far scappare via la mia profonda malinconia. Così te ne dico, foto. Cipolline alla delizia. Così, guarda. Uomini di bassa cultura. Siete proprio una delizia. Voglio mangiarvi sempre. Mi sembrate delle perle e se questa vita è una pizza vi ucciderò tutti con l'alito che puzza. E vai, mi sembra già geniale. Brava. A questo punto ancora il prossimo poeta ancora che è Rettumo. Bravo. Non me ne va assolutamente dietro. Ormai tu. Ah, mo te ne vai. Come sono forti. Però è meglio di te. A chi? Ma perché sei fonico? Comico. È un esperimento. Bella borsa. La tengo io. No, anche perché non è questo. Magari era uno dei regali che non mi hai dato. Certo. Ma la vuoi sta una cosa grigia e consigliere? Questo. Niente, ma se sono di Stefano, non ti metti lui. Ripeto. No, veramente, adesso proverò... C'è la camicia figlia del giaccone di Andrea. È un bottino. Una cosa però... Ci vuole un attimo di pazienza e di silenzio. Io ti faccio vedere l'anno prossimo. Speso un miliardo. È già nudo. Mio amico Pietro. Adesso partirà la musica. Devo stare zitti. Oh, le mano. Cori, c'è un esperimento poetico. Hai depauperato una bicicletta. No, ci fai il soldo. Il poeta che sta facendo un esperimento. Poeta elettricista. Se no ci fate un cazzo. Ma cos'è? Ma ce l'avevo. Ma sei un balletto. Vediamo il nome. Non hai parlato. A volte guardo il mare e penso, chissà se essa gli occhi per guardare me. E ho deciso che non la farò mai più. Mai più. Mai più. Mai più. Mai più. Mai più. Vai Bonix! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Ma come le poesie? Ah, le musiche erano di Michel Fedrigotti. Chi? Michel? Vabbè, voi. Fedrigotti. Era il New Age, quello lì? Era il New Age? No, no, era musica orientale. Di Michel Fedrigotti. Orientale. Cinese, però. Cognome cinese. Cinese Marsiglia. E moi, du mon point. Chi? No, veramente. Se devo. Scusate. Scusate, se no, lasciamo qui. Ciao, io. Lui di nascosto osserva te. Tu sei nervosa vicino a me. Lui accarezza lo sguardo tuo. Tu ti abbandoni. Chi la sa? Chi la sa? Non faccio un'altra. No, no, no! No, no, no, no, vabbè. No, adesso è. No, leggi quello che vuoi, ma domani. No, cazzo, rispettiamo ancora. Allora. Chi la sapeva? Ne faccio un'altra, mia. Storia d'amore. Tu non sai cosa. Quella di prima. È uguale. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei. Lei scherzava con tutti, ma fuori di me, perché io le piacevo. Lei mi amava, lei mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. Lei per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me tua moglie dov'è. Dovevi immaginarti che un giorno all'altro sarebbe andata via da te. Tu l'hai, è mia, eh? Tu l'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Con i tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo amore. Un giorno vidi lei entrare nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me. Io dal letto mi alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo. Mi stringeva sul suo corpo, mi diceva sono tua, ma di dietro io restai. Uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola da te. Al letto ritornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo. Mi diceva sono tua e nel sogno la baciai. Con questa finisco, tipologia 03. Tipologia 03. Questo cielo di piombo mi presse al cervello. Sono così pressato che quando cammino sembra che qualcuno mi spinga verso il terreno. Il mare d'intorno mi stringe il collo come un maglione dolce vita. Pensa ai pesci che tutto questo non sentono sicuramente, non sanno neanche cosa sia il maglione dolce vita. Beato ignorante. No, basta. Vorrei chiudere con quella d'apertura, cappotto di legno. Non può ridere perché questa è montagne di sale piovuto da nuvole di panna bagnano costantemente il giaciglio del mio davanzale, dal quale noto il passare degli anni buttati distrattamente sui documenti tenutari dei miei dati anagrafici, i quali troveranno la loro notorietà solo il giorno che vestirò l'insolito cappotto di legno. Grazie Pietro. Bravo. Allora, vorrei ricordarvi che avrete l'onore di ascoltare di nuovo i Quasi Disgustisti. Beati loro. Che fortuna. Il 2302 declameranno di nuovo tipologia di nuove 02. Poesie nel locale Verde Milonga. Cioè il nome è una garanzia. Io un brucio prima la piazzata. No, siamo finiti? Signori, è finita purtroppo. Tira le conclusioni, Claudio. L'improvvisazione del pubblico. Esatto, se qualcuno vuol venire qui sopra a declamare è ben. Lo accettiamo. L'improvvisazione del pubblico.